America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Google si trova di nuovo al centro di una vicenda politica. Ieri Wael Ghonim, l'executive di Google, che in qualche modo è stato uno dei paladini di questa rivoluzione, mandava messaggi via internet, ha mobilitato le folle, ha finalmente parlato alla televisione dopo essere stato liberato. 30 anni, egiziano, vive a Dubai. Sentiamolo. Wael Ghonim, avete sentito la sua voce, si commuove, piange e rimobilita la piazza. Per prima cosa voglio portare le mie condoglianze alle famiglie, agli egiziani che sono morti. Non posso chiedere scusa per coloro che hanno fatto la protesta. Non hanno rotto nulla, era una dimostrazione pacifica. E soprattutto dice: per favore non trasformatemi in un eroe, sono una persona che ha dormito per 12 giorni. Gli eroi veri sono quelli che sono andati per strada. Ma oggi vorrei parlarvi anche di un paio di altre cose che sono indirettamente collegate a quello che è successo in Egitto. Voglio parlarvi di un rapporto della FAO che ci descrive una grave crisi di siccità in Cina, una crisi di siccità che potrebbe portare a una penuria molto pericolosa di grano, di produzione di grano cinese e dunque a un'esplosione dei prezzi. Ricordiamolo, è stato l'aumento dei prezzi delle materie prime, delle derrate alimentari, che prima in Tunisia e poi in Egitto ha costituito la scintilla su cui poi si sono costruite le dimostrazioni, su cui personaggi come Wael Ghonim hanno poi costruito i loro messaggi che hanno mobilitato la piazza. L'altro aspetto riguarda il nuovo documento dei capi di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, i quali hanno rivisto la loro strategia militare per il futuro, immaginando la necessità di una strategia post-Afghanistan, post-Iraq, nuove sfide con cui si dovranno confrontare gli Stati Uniti d'America per combattere e vincere le loro guerre. According to the National Flood Control and Drought Relief Headquarters, non appena si è diffuso un documento della FAO, l'Agenzia Alimentare delle Nazioni Unite, le stazioni radio, televisive, i giornali, le agenzie di stampa di tutto il mondo hanno rilanciato la notizia con preoccupazione, perché in questo rapporto si lancia un allarme per il raccolto cinese di grano per quest'anno, anticipando il rischio di una grave penuria. In mancanza di pioggia da qui alle prossime settimane, anticipa il rapporto, potrebbero esserci conseguenze disastrose sui prezzi mondiali di grano e gran turco. La Cina, ve lo dicevo prima, soffre di una siccità tremenda. Pensate che dal mese di settembre ad oggi le precipitazioni sono state calcolate in appena 1,2 centimetri di acqua piovana. Dunque il problema è grave. Perché? Beh, perché la Cina è il primo produttore di grano al mondo. Il suo raccolto è destinato quasi esclusivamente al consumo interno, perché dopo una violenta carestia che ci fu negli anni 60, pensate che fece milioni di morti per denutrizione, Pechino aveva deciso che non sarebbe mai più stata dipendente da importazioni di grano, voleva autonomia alimentare. E che succede a questo punto? Succede che con la siccità in Cina c'è stata anche una siccità in Russia l'estate scorsa, ci sono state inondazioni recentemente in Australia e questi due paesi, Russia e Australia, sono i più grandi esportatori del mondo, quindi hanno calato di molto la loro produzione con forti ripercussioni già sui prezzi. Ora che la Cina si trova in difficoltà, potrebbe rivolgersi per la prima volta nell'era contemporanea sui mercati internazionali in un momento in cui c'è già un pericolo di caduta dell'offerta. E quindi con la potenza della Cina, che ha riserve valutarie calcolate in quasi 3.000 miliardi di dollari, pensate che queste riserve sono tre volte il secondo paese per riserve valutarie, cioè il Giappone, Pechino potrà soddisfare qualunque sua esigenza, e questo andrà a danno di chi? Dei paesi industrializzati, che si confronteranno con prezzi esorbitanti, dei paesi emergenti o più poveri, che addirittura non potranno neanche più permettersi di accedere al mercato. Questo significa che in prospettiva rischiamo di avere moltiplicato per 10 o per 100 quello che è stato il segnale d'allarme grave, pericoloso, prima in Tunisia e poi in Egitto. In un documento preparato dai capi di Stato Maggiore delle Forze Armate americane, un documento di 21 pagine rilasciato ieri, si descrivono le sfide militari degli Stati Uniti d'America nell'era post-Afghanistan e post-Iraq. Il documento parla di un mondo multinodale, un mondo cioè in cui ci saranno alleanze variabili, ci saranno nuove potenze emergenti che oggi non possiamo neanche identificare, ma alcune ovviamente le abbiamo già identificate: la Cina, l'India, il Brasile. Saranno potenze queste che nel giro di 20-30 anni ovviamente si armeranno e cercheranno di far valere, oltre alla loro forza economica, anche la loro forza militare. Ecco, gli Stati Uniti si debbono preoccupare dunque di questa nuova dinamica geopolitica, ma si devono preoccupare di sfide che sono legate a fenomeni che già testimoniamo oggi. Immaginate quello che sta succedendo per esempio in Egitto, o quello che è successo in Tunisia, moltiplicato, come vi dicevo prima, per 10 o per 100. Immaginate che dei paesi africani improvvisamente non possano avere derrate alimentari. Ebbene, una delle sfide che gli americani mettono nel conto è quella di un esodo, per esempio, di milioni di persone che si muovono verso il nord. E dunque, come ci si comporta nel momento in cui un fenomeno di questo genere dovesse capitare? L'altra sfida, vi dicevo, è la sfida spaziale. Questi paesi emergenti saranno sempre più presenti nello spazio, e dunque il messaggio che emerge da questi capi di Stato Maggiore è che in futuro forse le forze armate americane dovranno avere magari più ingegneri che soldati. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli LCD Sound System hanno annunciato che il 2 aprile suoneranno insieme per l'ultima volta. A febbraio si aprono le vendite per i biglietti in quella che sarà una maratona di 3 ore al Madison Square Garden, un happening, una grande festa. Un dettaglio curioso: la band ha chiesto al pubblico di vestirsi di bianco, di nero o in bianco e nero. Questo mi ricorda un grande ballo che fu organizzato da Truman Capote negli anni 60, appunto il Black and White Ball all'Hotel Plaza, che rimase un ballo storico. L'alta società newyorkese, 500 persone furono invitate, e dunque New York trionfa. C'è questo legame fra il futuro in arrivo il 2 aprile e quello che capitò negli anni 60 degli LCD Sound System. New York, I love you. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I'm wrong and just maybe you're right. A New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.